Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatrici, gentili ascoltatori, buonasera, buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, stasera siamo qui e siamo con un ospite veramente illustre, che abbiamo corteggiato. Certamente. E finalmente l'abbiamo qui con noi. Allora io ti lascio la parola, poi pensi tu. Certamente, allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. E ricordiamo alle amiche e agli amici all'ascolto il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista Mirko e ciao, Mirko. Con un ospite graditissimo, un amico, sì, che è Gian Domenico Mazzoccato. Buonasera, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera. Grazie, grazie, un piacere. Dopo tanto... Siamo riusciti finalmente a cause avere di forza maggiore, e non che io mi renda prezioso, per carità. No, lo sappiamo. Sa, era talmente tanto il nostro desiderio di averla con noi che finalmente, sì, finalmente dobbiamo dire finalmente. Beh, penso che non sia la prima solo, che ci sia poi un seguito. Ecco, noi lo molto volentieri. Lo ecco, okay. E allora, per iniziare così degnamente, leggiamo così una sintesi, una summa che è incompleta, volutamente incompleta, devo dire, di Gian Domenico, che è nato a Treviso, laureato in lettere classiche con una tesi sullo scrittore più fuori schema, fuori sciapo diremmo noi qui, della letteratura italiana, Teofilo Folengo, e ha insegnato in un liceo della città di Treviso. È giornalista pubblicista e collabora a diverse testate, tra le quali La Vita del Popolo, che è il settimanale della diocesi di Treviso, con la rubrica Una parola ai libri. Ha pubblicato alcuni volumi di costume sportivo, è stato naturalmente anche radiocronista e appassionato di rugby, e alcune monografie sull'opera di artisti contemporanei. Ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi sia per la sua attività di giornalista che per la sua opera poetica, ma anche naturalmente per i suoi libri: Il delitto della contessa Onigo, Santi 40 editrice, Il bosco veneziano, Gli ospiti notturni. Andremo nei dettagli la prossima volta. Gian Domenico ha scritto anche Crepuscoli, la sillogia di racconti che aprono lo splendido libro fotografico di Antonio Piovesan, Alte Terre, Tintoretto Edizioni. Il testo, nelle sue traduzioni ed edizioni inglesi, è stato definito dal grande Giorgio Lago il più prestigioso biglietto da visita della cultura trevisana e veneta nel mondo. Di Gian Domenico Mazzoccato nel 2000 è stato pubblicato anche un racconto lungo, L'America, edizioni della Vita del Popolo. È appassionato viaggiatore, è stato anche presidente di un'associazione nazionale dei camperisti e coniuga la sua passione per l'avventura con l'hobby della fotografia. Colleziona incisioni di musica barocca e di musica leggera anni 50 e 60. È traduttore di classici latini, Tacito e Tito Livio, e presidente dell'Ateneo di Treviso, sì, certo, prestigiosa istituzione fondata da Napoleone nel sì, 1810. Quello che andiamo ad inaugurare il 12 di novembre con uno straordinario concerto di musica barocca eseguito dall'ensemble Sanssouci, diretto dal grande oboista Giuseppe Nalin, è il 202esimo anno accademico del nostro sodalizio. Splendida, insostituibile. Allora, prima di dare la parola al dottor Gian Domenico Mazzoccato, meglio solo Gian Domenico, Gian Domenico Mazzoccato, come un amico. Sì, un amico, ecco, va bene, l'amico. E ascoltiamo una canzone cantata da un classico trevigiano, un tenore, cantata proprio da Mario Del Monaco. Così ho voluto festeggiare l'ingresso del nostro amico Gian Domenico Mazzoccato con una canzone intitolata, da romanza più che canzone, Il mio primo angelo. Thank you. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Gian Domenico. Naturalmente a fianco di un uomo importante c'è sempre una donna più importante. E allora un cordiale saluto alla gentilissima signora Egle. Anche da parte mia, anche se non la conosco. Mio ecco. Grande amore. Bello. E allora passiamo a Gian Domenico per un inizio, questo abbrivio, diciamo. Ci attacchiamo a Mario De Mona. Va bene, certo. Mario è stato un grandissimo, e ho avuto la fortuna di intervistarlo a casa sua e ne ho tratto una sensazione di grandezza e di spettacolarità che purtroppo vedo un po' dispersa da coloro che gestiscono, non da tutti, da alcune persone che gestiscono la sua immagine. Voglio andare un pelo controcorrente. Io sono uno di quelli che trova bello il monumento a lui dedicato in Piazza Borsa. Devi essere uno dei pochi. Perché, tra le altre cose, ho seguito tutto il processo creativo con l'artista, la Elena Ortica. Lei, sarà il caso di ricordare, ha vinto un concorso. Adesso a me fa un po' pena che ci siano altri che fanno vedere il loro bozzetto. Quelli sono quelli che hanno perso il concorso. Certamente, occorre sottolineare. Il tema del concorso era rappresentarlo nelle vesti dell'Otello. Dopo Caruso è stato probabilmente il più grande Otello, esatto, del Novecento. Aveva anche la voce per farlo. E questo ha incatenato l'artista, no? E penso che l'artista, dentro a queste catene, in una continua opera di mediazione con il committente, perché è il committente quello che paga, gli artisti non possono morire di fame, che è detta legge. Certamente. In questa continua opera lei ha prodotto, secondo me, una cosa importante. Ecco, mi piace questo tuo intervento per un motivo molto semplice. Si parla a volte senza sapere di ciò di cui si parla. Certo, è vero. E questo è vero, purtroppo, e qui vero, naturalmente ci si rifà i propri schemi. Se si fosse chiesto a Elena Ortica di rappresentare il suo del Monaco, sarebbe venuta fuori un'altra cosa. Il committente ha bandito un concorso, lo voleva con quei paletti. Il soggetto, sì, era quello, chiaramente. Poi c'è stata questa cosa dei tecnici del comune che hanno fatto quel nefando e funerario basamento che nuoce al monumento in una maniera esiziale. E che non sia quello proprio il vero motivo. Ma io, diciamo, mi ricordo l'assessore che il giorno dell'inaugurazione non ha speso una parola per la e si è congratulato con i tecnici che in pochi giorni avevano fatto quella nefandezza. Ma io non mi meraviglio a Treviso di queste cose qua. Neanch'io. No, assolutamente. Neanch'io. D'accordo. E allora, da dove iniziamo? Chiediamo a Gian Domenico nella vastità. Cominciamo col dire che, scusami la civetteria, che se qualcuno vuole conoscermi meglio, io ho un sito, certo, molto ampio, lo si legge come un magazine perché è una rivista continuamente aggiornata, dentro ci sono i miei diari di viaggio, le mie conferenze, un po' tutte le cose che faccio, i miei libri, le mie, un po' tutto, insomma, adesso non voglio tediare, no. Ed è www.giandomenicomazzocato.it, ci sono i contatti, io rispondo a tutti quelli che mi scrivono. Giandomenico Mazzocato è tutto, ecco, vicino, vero? Giandomenico Mazzocato, sì, tutto attaccato, due Z e una C. E anche questa è una caratteristica, come dire, desueta, quello di rispondere. Purtroppo io rispondo a tutti sempre. Io trovo invece che pubblici amministratori, non solo Antonio, sì, ma non faccio neanche perdere tempo. No, esatto, cioè, esatto, lo faccio subito. Questo, sì, ci sono molti anche pubblici amministratori che sarebbe quello il loro dovere, non rispondono ai cittadini, e questa è una cosa che io noto e che mi dà molto fastidio. Non è educato, non è rispettoso. Non abbiamo questa cultura della reciprocità, dell'educazione, del rispetto degli altri. Guarda, io ti faccio un esempio. Mi ha fatto un'email una laureanda in lettere classiche. Tu sai che io ho tradotto tutta l'opera, certo, di metà dell'opera di Tacito. Certo. Mi ha fatto un'email chiedendomi delle indicazioni bibliografiche. E io gliele ho procurate nel giro di 48 ore, perché so che la gente scrive a degli, tra virgolette, esperti evidente, sì, per avere un, chiaramente, e trovo per che avere questa un colleganza Guarda, ti faccio l'esempio opposto. Sto scrivendo un romanzo sul Settecento Veneto, sul Settecento musicale Veneto, e in questo momento sto raccontando la storia di una bellissima strega. Ho letto per caso un saggio di una professoressa di antropologia dell'Università di Messina, Marina Montesano, Caccia alle streghe. Le ho fatto una mail e poi le ho telefonato chiedendole una consulenza per questo personaggio e lei mi ha risposto subito. Ecco. Cioè c'è colleganza, sì, sì. Questa circolarità di motivi culturali che è un valore. Certo. Ed ecco la chiave di lettura. Cultura. Allora, chi ha cultura sa che chiaramente non si può esimere dal dare una risposta a chi la chiede, evidentemente. Ecco. Sì, ma molto spesso, specialmente certe persone, non neanche ti badano, insomma. Anche se chiedi cose importanti. È un segno dei tempi. Speriamo che cambi un po', perché altrimenti... Sperare, sì. Prego. Bene, prego, Gian Domenico. Ho detto appunto di venirmi a trovare nel mio sito. Io, se volete, non so di che cosa possiamo parlare. Volete che possiamo parlare di qualcuna delle mie storie? Assolutamente, questo è un punto fondamentale. Io ho letto due libri suoi a suo tempo, Il Bosco Veneziano e La Contessa di Onigo, che mi è piaciuto. Il delitto della Contessa di Onigo. Sì, sì. Però adesso lei ha scritto degli altri che io... Sono ansiosa di leggere. Io direi di partire, chiedo scusa se ti interrompo, dal Delitto della Contessa Onigo. Benissimo. Perché mi pare che sia proprio uno dei punti. Beh, è un libro, devo dire, importante nella mia storia personale. Penso di sì, perché è molto bello. Mi ha dato quel po' di successo che in questo mondo è un abbrivio. Ho vinto con quel libro il più importante premio per le culture locali che c'è in Italia, che è il Gambrinus Mazzotti. Di San Polo di Piano. L'abbiamo qui vicino, quel premio lì molto importante. Allora, Il Delitto della Contessa Onigo. Dove nasce? È nato, diciamo, nella mia post-adolescenza, nella mia giovinezza, quando per mantenermi all'università ho fatto mille cose, una delle quali era fare delle ricerche per altri studiosi, e ti davano le 10.000 con cui ti pagavi l'abbonamento al treno. E io ho sempre avuto questa indipendenza, povertà, perché per carità sto bene, ma insomma non sono io ci vivo bene dentro alla modestia e così via, e mi sono imbattuto in questa storia, in un racconto, in un archivio parrocchiale, di questa gente che si muove per andare a Venezia a questo processo. Questa storia mi ha dormito dentro. La pasta, no, che lievita, ha lievitato. Sì. E a un certo punto ho capito che sta storia non potevo più tenerla dentro di me e la dovevo raccontare. Ho cominciato a documentarmi, è saltata fuori una storia splendida, perché è la storia di questo contadino, Pietro Bianchet, che nel 1903, sfruttato da Teodolinda Onigo, ultima, perché lei era sterile, non ha avuto figli, ultima discendente degli Onigo, sfruttata da questa donna che era di una protervia, di una micragnosità. Guarda, Antonio, e la uccide, la faccio ancora. Ci sono degli episodi che io non ho raccontato nel romanzo, perché gli avrebbero tolto spessore, compattezza, gli avrebbero tolto anche, come dire, la densità poetica, che credo sia una delle caratteristiche del romanzo. Ma per esempio, se vuoi, ve ne racconto una. Allora, capire. Come tutti sanno, il teatro di Treviso è teatro Onigo, storicamente. Storicamente edificato, portato avanti e per secoli gestito dalla famiglia Onigo. Allora, quando si trattò di alienarlo, lei era diventata una passività, lei era di una tirchieria esasperata. Pensatevi che mandava a prendere il caffè a un suo servitore, non se lo faceva in casa, lo mandava a prendere a un suo servitore, al quale diceva: costa 20 centesimi, te ne do 16, perché a me piace amaro e risparmia sullo zucchero. Stavo dicendo che questa donna, per privilegio, conservava un palco a teatro. E allora lei andava a vedere la prima delle opere della stagione. Poi, ricca, in cifre che io posso addirittura dire milioni di euro attuali, pensatevi che Trevignano era tutta sua, sua mamma tutta mia. Sua, tutta, tutta, uomini, case, tutta sua. Aveva il coraggio. Sarebbe come se una cosa del genere la facesse Agnelli o Berlusconi o Della Valle. Sì. E aveva il coraggio di girare per tutti i barbieri di Treviso a dire che il suo palco era in vendita un po' meno del biglietto ufficiale. Mamma pensatevi mia. Voi come mamma mia, che tirchia e la sua tirchieria con un'estrema ingiustizia fatta sulla pelle di questo contadino che il punto fondamentale è stata la sua morte. Sì, perché a un certo punto uno dai dopo si stanca, vero? Sì, io naturalmente non mi sono limitato a questo. Io ho cercato di raccontare lo spessore di Linda Onigo proprio andando a pungere per esempio gli aspetti della sua diversità, lei sterile, i giornali di allora allusero al fatto che la sua dama di compagnia, la Hirschauer, fosse per lei qualcosa di più di una semplice, quindi ci fosse una sorta di lesbismo, certo. Sussurrano, certo, ma per esempio era Valdese in una situazione tutta cattolica, esattamente. Un corpo estraneo in cui la rappresentanza della Chiesa Valdese nel corpo della, diciamo, della diocesi di Treviso era data praticamente dalla sua famiglia, cioè ci sono tanti motivi di diversità che fanno di questa donna poi la consapevolezza di essere sterile, di essere l'ultima degli Onigo, che non sia anche questo un motivo scatenante, appunto. Cioè io non mi sono limitato alla cattiveria di questa donna che era di grana grossa, certo. Ma ho cercato di studiarne anche tutti, di capire. Io non credo che la cattiveria dipendesse solo dal fatto che era sterile, molto probabilmente era un fattore, era una donna sola, una donna... E che non vole, il marito se n'era andato, pensatevi, il marito era uno di casa Rinaldi, un conte, sì. Se n'era andato ad Asolo, dove aveva fatto quattro figlie. Lui si presentò al processo recitando la parte del marito che si voleva riconciliare con la donna per, come parte civile, sì, no? Sì, no. Fu un po' un gioco delle parti della gente, e alla fine di quel processo il processo non c'era, perché c'era un reo confesso che aveva ammazzato di fronte a tanti testimoni. Quindi il contadino si è l'ha ammazzato con due colpi di zucchero che le hanno tagliato la testa. Deve essere ed è avvenuto qui ai giardinetti, a quelli che sono i giardinetti di Sant'Andrea, che una volta erano strutturati in maniera completamente diversa. E il giudice di Venezia si è trovato di fronte a un bivio tremendo, cioè se punire uno che, ripeto, era reo confesso, il massimo della pena non era già più la pena di morte, capitale, no. Ma erano i lavori forzati a vita. Beh, c'era una legge recente che commutava ecco, o se punire o se tener conto delle condizioni di miseria, di ignoranza, di degrado, di ingiustizia, di degrado, bravo, in cui il delitto aveva messo radici. E se mi permettete, non diciamo il finale, perché altrimenti continua a stravedere, decisamente. Ed è un legal thriller a tutti, che consigliamo esattamente. Comunque è bellissimo. Non sciogliamo il finale, come il giudice imboccò quel bivio. Però uno degli elementi che hai appena citato sarebbe interessante portarlo ai tempi nostri, i lavori forzati per dei delitti particolarmente efferati contro la pubblica amministrazione. Bravo Antonio, bravo. sarei d'accordo e penso che su questa cosa troveremmo che ha fiorito ampia convergenza, diciamo. Sì. Bene, ci fermiamo un momentino per ascoltarci una canzone. Allora, visto che al nostro amico piacciono le canzoni anni 50-60, adesso... Sì, senta, però mi lasci dire una cosa, perché io non vorrei fare la parte dell'archeologo di me stesso. Tutte le sonorità splendide, anche di questi giorni, attingono lì al repertorio delle sonorità e delle tematiche musicali di quegli anni. Esattamente. Okay. Diciamo, è vero. Io... Bene, allora ascoltiamo la grande Caterina Valente in Concerto d'autunno. Via dal vento. Ed eccoci di nuovo in studio, naturalmente ringraziando e salutando naturalmente il nostro Eddie. Regista Eddie che è tornato. Eddie che è tornato con noi. E volevo sapere qualcosa da parte di Gian Domenico dell'Ateneo, perché mi incuriosisce. Istituzione prestigiosa ma poco conosciuta al di fuori dei, diciamo, degli ambiti culturali elevati. Giusto? Beh, diciamo che intanto l'Ateneo di Treviso è la più antica e la più prestigiosa delle associazioni culturali. Dicevamo prima, sì. 202 anni di vita. Siamo tre in Italia, abbiamo sostituito nel primo 800 le antiche accademie. Siamo stati fondati da Napoleone con sua legge speciale del 27 dicembre 1810, due giorni dopo Natale. L'Ateneo ha avuto alti e bassi, io spero che la mia presidenza, sono già al secondo triennio, la mia presidenza non sia considerata proprio un basso basso. anche perché in questo periodo ho dovuto affrontare problemi soverchianti, francamente, soprattutto logistici. Sì. Noi eravamo ospiti del Palazzo dell'Umanesimo Latino, sì. Poi per le note difficoltà di Unicredit, eccetera, di fatto ci siamo trovati sfrattati, devo dire anche in malo modo, in maniera non consona l'istituzione. Il problema non è dove siamo, perché adesso il Pio Decimo ci offre, seppur in maniera provvisoria, ci offre una stanza per i nostri bisogni di segreteria. Sì. Ma il problema grosso, cari amici qui in studio e cari amici in ascolto, era che andasse in diaspora, andasse dispersa la nostra incredibile biblioteca. Il rischio è quello. Che è una biblioteca molto ampia, E che ha una parte di archivio e di manoscritti. Noi abbiamo manoscritti di Rossini, di Canova, è un tesoro. E il rischio era che succedesse quello che è successo per esempio fra le due guerre, che questo patrimonio andasse disperso. E naturalmente questa è stata una battaglia che io ho combattuto, ripeto, contro, ma non contro dei nemici, contro una insensibilità di fronte a questo problema. Ho trovato un interlocutore importante in Luca Baldin, direttore della Fondazione Mazzotti. La Fondazione Mazzotti torna sempre nella mia vita, prima il premio Mazzotti, poi la Fondazione, e adesso la nostra biblioteca è un fondo autonomo, ma si trova negli spazi ed è fruibile della Fondazione Mazzotti. L'ho salvata, l'ho tenuta unita. E devo dire la verità, io pensavo di dover profondere le mie energie per festeggiare i due secoli di vita, perché non so di questi tempi chi possa dire sono vecchio di 200 anni. Ho dovuto profondere le mie energie in questa lotta per la sopravvivenza. E lo dico, devo dire grazie al nostro segretario Giancarlo Marchetto, che proprio in questo periodo sta cedendo il posto al nuovo segretario che gli subentra, che è Ferdi Hermes Barbon, e al direttivo che mi ha accompagnato, in particolar modo al vicepresidente, il professor Lino Serena, ma anche a tutti gli altri, Franco Zanella, eccetera, il dottor Biscaro, eccetera, che mi hanno aiutato e supportato, il giornalista De Donà, Ivano Sartore, il nostro socio, non è membro del direttivo. Ivano mi ha sempre dato una gran mano. E proprio Ivano è uno di quelli che in pubblico, quando prende la parola, capisci che è un muro su cui tu puoi appoggiare le spalle, e proprio mi ha dato anche, come dire, come supporto, una mano. Le speranze sono di noi ogni anno. Tu dici poco conosciuto, ma abbiamo un sito e io tengo collegate personalmente, questo è un lavoro che faccio personalmente, tengo collegate tutte le persone che mi dicono questo è il mio indirizzo di posta elettronica. Certo. Abbiamo un anno accademico quest'anno strepitoso con gli argomenti più vari. Prima citavo la Prolusione, che sarà questo concerto di musica barocca. Sì, barocca, sì. E voglio citarne un'altra cosa. L'Ateneo di Treviso ha rivestito in 200 anni ruoli diversi. C'è stato un periodo in cui era veramente il propulsore della vita civile. Le prime scuole materne, i primi asili sono nati per opera. Questo non lo sapevo. Io quest'anno dedico... Allora, la nostra formula è che all'interno di un'ora, un'ora e mezza, stanno dentro due mini conferenze, così teniamo variati tempi. Quest'anno pesanti. Dedico un'unica giornata, cioè un'unica lezione, un'unica conversazione, un'unica sessione, diciamo, sì. Come vogliamo chiamare, al settore materno-infantile e alle possibilità che offre uno strumento moderno importante come l'affido. Per me è un modo per tornare alle origini e per collocare l'Ateneo proprio nel vivo della società civile. Perfetto. Il problema è quello, lo dicevi tu Antonio, il problema è quello della visibilità. Esattamente. Ma come facciamo noi? Guarda, in questa città stimoli ce ne sono tantissimi. L'Istituto di Cultura Classica, la Dante Alighieri, poi l'Alliance Francese. Io sfido qualcuno a dirmi, allora c'è in giro molto più di quanto si crede, tanta brava gente che si fa il calendario e non ne perde una. Esattamente. Di questo e di quello. Certo. Ma io vorrei sapere questa enorme proposta culturale che Treviso è in grado di fare, chi la aiuta ad avere visibilità. Ho l'impressione. Se non sono io personalmente che telefono a tutti i giornalisti ogni volta. È un dramma, effettivamente, è un dramma. Perché... Io mi accaloro e anche un pochettino di dramma. Sono molto sereno, però. Sì, sì, ma... Ve ne dico un'altra che, diciamo, ha un'analogia con questo. Istituto di Studi Filosofici di Napoli, la biblioteca che sembra che si stia disperdendo e hanno dei volumi di elevatissimo valore. E io non riesco a capire questa cecità, questa miopia, anche perché il passato, come fai? Come fa Treviso a non rendersi conto che se la biblioteca dell'Ateneo va dispersa è la città che diventa più povera? Evidentemente. Come si fa? Io temo che noi siamo reduci da un periodo che ha, ma non solo qui a Treviso, ha degradato la cultura. Certo. La cultura. È la mia impressione. Quando tu vivi 20 anni dentro a una... Non voglio andare fuori del seminato, ma quando tu vivi per 20 anni in una logica che è solo mi metto insieme ad altri e faccio una cricca per fare i miei affari e il pubblico che si freghi perché è il privato che deve accumulare a scapito di tutti gli altri privati, la paghi, diciamo che è discutibile la paghi. La questione, di questi giorni si sta dicendo che bisogna fare un governo che garantisca la governabilità del paese, è sbagliato, perché l'emergenza non è la governabilità, l'emergenza è l'etica. L'etica. Allora etica è una facciamoli parola, di destra o di sinistra, ma che siano galantuomini. Appunto, esattamente, ecco questo sottoscrivo pienamente. Anch'io. Allora ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è cantata da Frank Sinatra, New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. That doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. In a city that never sleeps, and find I'm A number one, top of the list, king of the hill, A number one. These little town blues, oh, it's up to you, New York, New York. Oh, eccoci di nuovo in studio. Allora io volevo fare una domanda. Come mai, fra tutte le sue produzioni, Scritti Veneti, è sorta questa Tana e Quil l'Etrusca? Come è successo? Beh, allora sì, è una cosa che può stupire, insomma, chi legge le mie quanto cose. Quantomeno incuriosire. Sì. Io che racconto solo storie venete mi sono messo a raccontare di questa regina etrusca. L'idea mi è nata traducendo Tito Livio, soprattutto il primo libro, che è il libro dei sette re di Roma. E ho trovato una cosa che nella scrittura di Tito Livio sono 5 righe. E io l'ho trasformato in un romanzo che è un romanzo giallo ambientato nell'antica Roma. Chi è Tanaquil? Lo rivelo poco a poco perché lasci un pochettino di sorpresa, ma alla fine lo dico. Sì. Tanaquil è una splendida donna etrusca, vive diciamo a Tarquinia, ecco, proprio nel cuore dell'Etruria. Vicino al lago di Bolsena, eccetera, la quale è innamorata di un bravissimo uomo, molto intelligente, molto bravo, il quale ha un difetto. È figlio, sì, di una donna etrusca, ma di un padre greco, demarato. E naturalmente questo che cosa comporta? Comporta che in una società un po' chiusa, un po' bigotta, un po' sclerotizzata, come la società etrusca del tempo, quest'uomo non riesce a fare carriera politica e avrebbe dentro di sé tutte le doti, tutti i carismi del comando. Allora lei, autentica first lady dell'antichità, gli dice: senti, qui vicino a noi c'è una città, stiamo parlando della nascente Roma, c'è una città che è sorta da poco, in cui non stanno tanto a guardare il pedigree, in cui non stanno tanto a guardano la persona, che capacità e che doti ha. Si trasferiscono a Roma e lei gli fa fare carriera politica perché lui diventa Tarquinio Prisco, il quinto re di Roma, considerato il più grande dei re dopo il re fondatore Romolo. Lui regna per quasi 40 anni, alla chiusura è già vecchio, quando viene assassinato, questo è il racconto di Livio, che però non ci dà ulteriori spiegazioni, che viene assassinato da due fratelli che, fingendo una lite fra di loro, gli chiedono giustizia, ma in realtà è solo per avvicinarsi a lui ed infliggergli il colpo mortale. Che cosa fa Tanaquil? Tanaquil qui dimostra la sua grandezza. Ripeto, in Tito Livio tutto è in pochissime righe, sono io che ho amplificato. Che cosa fa Tanaquil? Prende il marito, re Tarquinio Prisco, e lo porta nelle stanze più riposte del palazzo reale. e dice in giro, fa spargere la voce che il re sta benissimo, che tra poco tornerà ad amministrare giustizia davanti al suo popolo, che dal Monte Soratte sono venuti i monaci così bravi nel curare, nel lenire le ferite e nel lenire i dolori. Insomma, sparge la voce e si prende quei 3, 4, 5 giorni di spazio durante i quali lei gestisce la successione al marito e la gestisce scegliendo un successore che non appartiene, contro i suoi figli, che non appartiene alla sua famiglia. E infatti qui nasceranno tutti i drammi che porteranno al settimo e ultimo re, che è Tarquinio, il superbo. Sì. E dopo la morte del marito, dopo i funerali, lei si ritira e io gli do un finale. Ma il problema è: chi è che ha fatto uccidere Tarquinio Prisco? Il mandante. Chi è il mandante? È dentro la casa, è fuori la casa, sono gli Etruschi gelosi della grandezza di quest'uomo, è un fatto di politica estera, un fatto di politica interna, e insomma è un giallo che nell'ultima riga dà la soluzione. È accattivante, che, è una che cosa noi non la diamo, neanche sotto tortura. Sì, che bello, è molto interessante. Sì. Beh, è anche un modo per viaggiare dentro una delle mie grandi passioni. A proposito, no? Di viaggi. Mi lasci dire solo questa cosa qui, che è la cultura etrusca. Io immagino che loro facciano il loro viaggio di nozze sul lago di Bolsena. E per respirare le atmosfere del lago di Bolsena io ho vissuto 15 giorni in Riva Gaia, perché io la ricerca delle fonti. Lei mi stava dicendo a proposito di viaggi, so che lei ne ha fatti tantissimi. Viaggi ne ho fatti molti di tutti i tipi, però il mio modo prevalente di viaggiare è col camper, che dà una conoscenza senza mediazioni. Io dico sempre, ma è la pura verità, non è una cosa di cui mi vanto, ma però della quale sono orgoglioso, sono stato 3 volte a Capo Nord. Anche recentemente? No, l'ultimo risale ormai credo a 6-7 anni. Ma insomma abbastanza. Capo Nord in camper. Da Gibilterra a Capo Nord io ho fatto tutta l'Europa. Non c'è capitale europea che io non sappia girare a piedi come le mie tasche. Addirittura. Sì, perché Copenaghen come Oslo, Stoccolma come Parigi. Lisbona. Lisbona è una città... Dicono che sia splendida. Sì, Lisbona è splendida anche perché mette... le città per me sono delle entità. Sì. Ha avuto un grande terremoto tra il 500 e il 600, per cui c'è tutto un quartiere che reca quella immagine, la ricostruzione di quegli anni, e poi c'è tutta la Lisbona vecchia. Dove è nato il fado, poi, fra l'altro, lì. Il fado. Sì. Allora, in centro a Lisbona... Amalia Rodriguez. Centro a Lisbona c'è un piccolo... una piccola carrozza ferroviaria e io lì mi sono preso tutti i CD di Amalia Rodriguez in registrazione originale. Ed è perché in continuazione spande. C'è quella bellissima canzone che poi ha interpretato Milva col titolo della Filanda, è un fado, proprio l'anima dei portoghesi. L'ha fatto ascoltare. Sono, lo devo dire, un popolo triste. Ed è un fatto, io credo, di confine. Perché tu esci dalla Spagna ed entri in Portogallo e cambia proprio la visione. Ma quando dico che è un popolo triste, non voglio dire che è un popolo sciocco o così via. È un po' malinconia. È il fado, è la colonna sonora di questa melanconia. È vero, che ha niente a che vedere con la saudade brasiliana. È allegra, c'è una nostalgia. Io ricordo sempre l'etimologia della parola nostalgia, che è una parola moderna, non è una parola antica. Nostalgia vuol dire algos greco dolore, nostos il ritorno. È il dolore del ritorno. Ed è la sindrome di coloro che tornano in un posto e scoprono che la misura temporale li ha traditi, perché il luogo non è più lo stesso. L'emigrante, quello che è che è straniero due volte. Esattamente. Perché torna e non ritrova il suo posto. Io l'ho provato. Io a questo proposito ricordo una commedia, che ero ragazza, interpretata da Emma Grammatica, che appunto lei desiderava tanto ritornare al suo paese, ha fatto mani e monti, era anziana, e quando è tornata è rimasta è quella la delusione, la vera cosa. E poi so che lei è stata tante volte in Francia. Sì, beh, di questo ne parliamo dopo. Ci sarebbero mille cose, ma noi naturalmente contiamo sul fatto che altre volte ci delizierà Ho parlato della Francia perché abbiamo adesso una cantante francese molto nota, Edith Piaf, che ci interpreterà la Vie en Rose. Perfetto. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ed eccoci di nuovo in studio con l'ultima tranche, come dicono i francesi, di questa veloce e troppo veloce, sempre dobbiamo affrettarci, va bene. A te, Gian Domenico. E mi pareva che stessimo parlando della Francia. Della Francia, Douce France. La Francia è un paese bello e dolce da girare. Poi, per chi ama il mio mezzo di spostamento, ripeto, il camper, è il paradiso, perché lì c'è un campeggio a pochissimi soldi, proprio magari spartano, ma nulla di più di quello che si chiede. Ce n'è uno ogni 15, 20, 10 chilometri. Allora, la Francia è anche bella perché è estremamente varia. Mi viene in mente il nord, la Normandia. e all'interno della Normandia cose diverse, perché tu puoi vedere la Normandia gotica, quella del Medioevo, quella che è così vicina alla psicologia e al clima morale dei cavalieri della Tavola Rotonda, mm-hmm. ma puoi vedere anche la Normandia con i luoghi dello sbarco. Ah, sì. D-Day, sì. Beh, e poi la Normandia dei cimiteri di guerra. Pure. E devo dire che quello che mi ha colpito di più non è quello americano, che io trovo bello, ma molto hollywoodiano, ma quello tedesco, con un senso della morte, con questa collina in mezzo, è veramente, veramente toccante ed emozionante. Tra le altre cose, questi cimiteri di guerra sono tutti in rete, persone che vanno a fare ricerca dei loro parenti caduti mettono il nome, e no, non ci sono tutti evidentemente, sì, sì, certo. Mettono il nome e lo trovano. Ma per esempio se vai lì, per esempio vai ad Arromanches, che è il punto preciso dove è avvenuto lo sbarco, e lì c'era il bisogno, che i film non li raccontano queste cose, sì. Lì c'era il bisogno di creare una spiaggia che non c'è. E allora hanno affondato dei cassoni in cemento e si vedono. Era quella Omaha Beach, no? Esatto, però il luogo esatto è Arromanches. Oppure salto al sud, i Pirenei e i Paesi Baschi, sì. In cui respiri un'aria di nazionalismo e di separatezza e campanilismo esasperato. Sì. L'ultima volta che sono stato è stato l'anno scorso ed è stato più che altro un viaggio di studio, perché ho fatto un itinerario legato alla figura di San Martino, di cui sono conoscitore, di cui sono, come dire, faccio conferenze tutti gli anni, certo. In tutta Italia, in tutta Francia su San Martino. San Martino non era francese? No, San Martino nasce in Ungheria, a Sabaria, l'odierna Szombathely, sì. Però diventa vescovo di Tours, eccetera, ed è un vescovo fondamentale nella storia della Chiesa intera, non solo della Francia. E un viaggio di approfondimento soprattutto della figura di chi ha raccontato molto bene la vita di San Martino, cioè il poeta trevigiano, 99 su 100 è nato a Valdobbiadene, che è Venanzio Onorio, Fortunato. E quindi è stato una sorta di pellegrinaggio venanziano martiniano tra Poitiers, perché Venanzio è stato vescovo di Poitiers, e sì. Tours. Poi c'è il grande mare di Parigi, dove ti anneghi. Io sono uno di quelli che, avendo delle sofferenze un po' particolari, non sono salito sulla Torre Eiffel, ma non lo rimpiango affatto. Non è quel punto, perché in realtà la Torre Eiffel è bella anche vista da sotto. Ci sono altre cose da poter vedere. Pensatevi, amici miei, che lì è stata una storia, perché mia moglie, che è una navigatrice eccezionale, proprio lei con una cartina in mano ti porta ovunque, mi dice: guarda, dunque dobbiamo andare, pensatevi che il campeggio di Parigi, il più centrale, si trova in Bois de Boulogne, quindi hai la Torre Eiffel davanti, e lei mi dice: guarda, Parigi ha degli anelli di circonvallazione intorno, appena ne troviamo uno ci mettiamo dentro e andiamo in Bois de Boulogne. Io sto ancora aspettandolo, perché ripeto che mia moglie è una navigatrice eccezionale, e raccontando questo episodio le faccio sicuramente torto, ma insomma sotto il palazzo del Louvre ho fermato un vigile e gli ho chiesto: Bois de Boulogne, perché proprio. Parigi è ma insomma adesso poi Parigi c'è tutto, è quella signorilità, allora, io tra le musiche che raccolgo amo raccogliere tutti i K di Mozart, tutte le musiche di Mozart belle. Sui Champs-Élysées c'è un negozio di musica che è grande, io credo, come di sola musica, poi è grande, non so, come Piazza dei Signori. Mamma mia. Con un sotterraneo. E allora io viaggio sempre con la mia lista dei K che mi mancano. Ah. e la tiro fuori, vado sotto. Il ragazzo che era lì, quando ha capito, io parlo correntemente francese, e quando ha capito di che cosa si trattava, insomma, si è messo a mia disposizione e lì sono venuto via con la carta di credito molto più leggera, sì, ma con un bottino straordinario. E lei è un amante di Mozart. Mozart, io mi guardo indietro, la storia dell'uomo è stata contrassegnata da alcuni geni che hanno avuto una sintesi mondiale. E allora chi sono? Omero, Dante, Shakespeare, Mozart, poi se qualcuno vuole... Certo, questi hanno sono la summa. Mozart è povero, poveretto, ma... E i buchiniste sono poco affascinanti, i libri che ci sono, certo, sulla Rive Gauche, sì, sono ancora lì. Per una pipa di tabacco compri delle edizioncine. Lì ho trovato la traduzione in francese di un'opera non nota di Ungaretti, Le Cinq Livres. L'ho trovata proprio lì, la tengo. E come romanzieri francesi? Devo precisarlo questo. Per me i romanzieri francesi sono il massimo. Sì, anche per me piacciono tanto. Stendhal è il più grande, che di bello. Tutto. Subito dopo ci metto Flaubert, sì. Balzac e Zola. Germinal di Zola è un'opera. Non l'ho letta quella. Guardate, io ho fatto il professore per tanti anni, sì. Do a voi e a chi ci ascolta i compiti per casa. Germinal, pensate, è la storia di uno sciopero in un paese del nord abitato da minatori, che è un paese un po' immaginario, ma reale, insomma. E quando Zola morì, morì per le esalazioni di una stufetta, e qualcuno disse che non fu affatto un incidente, perché lui è quello dell'affare Dreyfus, ha mandato a casa un governo, esatto, gli ha fatto rimangiare una condanna ai lavori della Cayenne di Dreyfus. Assai prima del Watergate. Qualcuno dice che non fu affatto un incidente, ma il giorno dei suoi funerali, i minatori, che erano stati raccontati da lui, scesero in massa dal nord e per le vie di Parigi lo accompagnarono all'ultima sepoltura in coro. Germinal. Una cosa da brivido. Pensatevi che quest'uomo, che soffriva di claustrofobia in maniera patologica, per raccontare meglio le condizioni, ha voluto vivere una settimana in miniera. Mamma mia, i romanzieri francesi per me sono piacciono tanto anche a me, eccetera, il realismo, quindi la ricerca non amo così tanto, lo devo dire, sarà un mio limite, i romanzieri russi non li amo così tanto, ma io ho letto Certosa tanto. Di Stendhal, bellissima, è un capolavoro, anche il Rosso e il Nero è bello, Le Rouge Noir, bellissimo, straordinario, ma io li ho letti tutti. Madame Bovary, sì, li ho letti tutti. Certo. Vi dico una chicca, ci sono quelli che pensano che leggere libri, romanzi eccetera sia una cosa, un passatempo da poveracci. Non è vero. I più recenti studi dicono che chi legge libri, romanzi in particolare, è più connesso, cioè ha più capacità anche da un punto di vista informatico, per la miseria. E allora chiudo io con una chicca da 10 secondi, a chicca aggiungo chicca, il mio amico libraio ed editore Zanetti, Danilo Zanetti di Montebelluna, grande Danilo. Mi racconta che una volta entra in libreria un bambino che si mette a fare i capricci e il padre del bambino, rivolgendosi alla madre, dice... Dica che stai a chieto, sennò parla ad Alghere che hai in un libro. Pensati quanta ignoranza. Mamma mia, noi siamo arrivati, siamo in chiusura. Io mi sono molto divertito. Mi fa piacere. Naturalmente noi contiamo su altri interventi. Intanto la ringraziamo infinitamente. Grazie. E speriamo di... di averlo ancora presto il nostro ospite. L'esperienza veramente è stata bellissima, veramente. Bene, allora Antonio, io ringrazio anche te. Grazie. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, il nostro regista, prima Mirko, poi Eddie. E come sempre saluto affettuosamente e vi dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.